questa è la storia di una ragazza che si chiama Marilu. Notte fonda, lei si alza, drin, drin, drin, la sua sveglia. Trucco potente, un bel push up e un perizoma che esce dai jeans. È proprio buona questa travona, ma chi è? Lei è una troia, lei è una trans, e lei batte, batte, batte sopra i marciapiedi. 100 euro lei si prende, sai, gli ormoni ha da pagare. Non ha magnaci, lei fa da sé, marciapiede, tutto suo è. Le altre puttane picchiate, cacciate, e ora clienti a volontà. Che boss, è proprio buona questa travona, ma chi è? Lei è una troia, lei è una trans, e lei batte, batte, batte sopra i marciapiedi. 100 euro lei si prende, sai, gli ormoni ha da pagare. Tro, tro, tro, oh, oh, yeah. Ehi, bella, quanto ti prendi? Tro, tro, tro, oh, oh, yeah. 100 euro perché sei tu. È proprio buona questa travona. Lei è una troia, lei è una travona, è proprio buona. Batte, batte, batte sopra i marciapiedi. Ma chi è? Lei è una troia, lei è una trans, e mi batte, batte, batte sopra i marciapiedi. 100 euro lei si prende, sai, gli ormoni ha da pagare. Lei è una troia e lei batte, batte, batte sopra i marciapiedi. 100 euro lei si prende, sai, gli ormoni ha da pagare.